Come sta il signor Thornton? Chiese il signor Hale. Visto il suo frettoloso bigliettino di ieri, temevo che non stesse bene. Oh, mio figlio si ammala raramente e quando succede non ne parla mai ne fa una scusa per non fare niente. Mi ha detto che non è riuscito a trovare il tempo per leggere con voi ieri sera, signore. Gli è dispiaciuto, ne sono certa. Tiene in grande considerazione le ore trascorse con voi. Oh, di sicuro sono ugualmente piacevoli per me, disse signor Hale. Mi fa sentire di nuovo giovane, vedere che apprezza con piacere tutto quello che vi è di bello nella letteratura classica. Non dubito che i classici piacciano molto alla gente che ha tempo libero, tuttavia, lo devo ammettere, ero contraria al fatto che mio figlio riprendesse a studiarli. Il tempo e il luogo in cui vive sembrano richiedere tutte le sue energie e la sua attenzione. I classici vanno molto bene per gli uomini che perdono tempo in campagna o nelle università. Ma gli uomini di Milton devono avere mente e corpo impegnati nel lavoro del tempo presente. O almeno questa è la mia opinione. Pronunciò quest'ultima frase con l'orgoglio che scimmiotta l'umiltà. Ma di sicuro, se la mente è rivolta troppo a lungo a un solo oggetto, diventerà dura e inflessibile e sarà incapace di accogliere tanti interessi, disse Margaret. Non capisco bene cosa intendete dire con una mente che diventa dura e inflessibile. E non stimo affatto quegli individui che come trottole si interessano a una cosa oggi e il giorno dopo la dimenticano completamente per una nuova. Avere molti interessi non si addice alla vita di un industriale di Milton. È o dovrebbe essere abbastanza per lui avere un unico grande desiderio, indirizzare tutti i propositi della sua vita alla sua realizzazione. Ed è? Domandò il signor Hale. Le guance giallastre della signora Thornton avvamparono e le si illuminarono gli occhi mentre rispondeva. Ma quella di avere e mantenere un'alta e onorevole considerazione tra i commercianti del suo paese, tra gli uomini della sua città. Questo posto mio figlio se l'è guadagnato da solo con le sue forze. Ovunque andiate, non dico soltanto in Inghilterra, ma in Europa, il nome di John Thornton di Milton è conosciuto e rispettato da tutti gli uomini d'affari. Certamente non è conosciuto nei circoli alla moda, continuò con aria sprezzante. Gentiluomini e gentildonne che vivono nell'ozio probabilmente non sanno molto di un industriale di Milton, a meno che non entri in Parlamento o non sposi la figlia di un nobile. Il signor Hale e Margaret ebbero entrambi l'imbarazzante e grottesca consapevolezza di non avere mai invece sentito il suo illustre nome fino a quando il signor Bell aveva scritto loro che il signor Thornton sarebbe stato un buon amico da avere a Milton. Il mondo di quella madre orgogliosa non era né il mondo raffinato di Harley Street, da un lato, né quello dei parroci di campagna e dei signorotti dell'Hampshire, dall'altro. Il volto di Margaret, nonostante tutti i suoi sforzi per mantenere un'espressione inalterata di semplice ascolto, rivelò alla percettiva signora Thornton il suo sentimento. State pensando che non avete mai sentito parlare del mio meraviglioso ragazzo, signorina Hale? Pensate che io sia un'anziana signora le cui idee si limitano a Milton e che il suo anatroccolo sia il più bello di tutti? No, affatto, disse Margaret con un certo animo. Forse stavo pensando che è difficile che abbia sentito il nome del signor Thornton prima di arrivare a Milton, ma da quando sono arrivata qui ho sentito dire di lui quanto basta per farmelo ammirare e rispettare. E per capire quanto sia sincero e giusto quello che avete detto di lui. E chi ve ne ha parlato? Chiese la signora Thornton, un po' più calma e allo stesso tempo gelosa per il timore che le parole di qualcun altro potessero non avergli reso completamente giustizia. Margaret esitò prima di rispondere. Non le piaceva il tono autoritario della domanda e il signor Hale pensò di intervenire in suo aiuto. Beh, è stato quello che ci ha detto lo stesso signor Thornton a farci capire che uomo sia. Non è così, Margaret? La signora Thornton si raddrizzò e disse: Mio figlio non è il tipo che racconta i fatti suoi. Posso chiedervi di nuovo, signorina Hale, dai racconti di chi vi siete fatta questa opinione favorevole di lui? Sapete, una madre è curiosa e desidera sentire elogiare i propri figli. Margaret rispose: È stato soprattutto quello che il signor Thornton non ha detto rispetto a quanto il signor Bell ci ha raccontato del suo passato. Questo suo silenzio, più delle sue parole, ci ha fatto capire la ragione per cui siete orgogliosa di lui. Il signor Bell? E che cosa ne sa lui di John? Lui, che vive una vita oziosa in una noiosa università. Ma vi sono grata, signorina Hale. Molte giovani signorinelle sarebbero state restie a dare a un'anziana signora il piacere di sentire che si parla bene di suo figlio. Ma perché? Domandò Margaret, confusa, guardando dritta negli occhi la signora Thornton. Perché? Oh, beh, perché presumo che magari potessero avere una coscienza che suggerisse loro che così facendo si stavano sicuramente ingraziando l'anziana madre, nel caso avessero qualche mira sul cuore del figlio. Fece un sorriso amaro, poiché aveva apprezzato la franchezza di Margaret e forse sentiva che stava facendo troppe domande, come se avesse il diritto di predicare. Margaret rise apertamente a quell'idea e la sua risata fu così forte che stridette nelle orecchie della signora Thornton, come se le parole che l'avevano provocata fossero state assolutamente ridicole. Margaret smise di ridere non appena si accorse dello sguardo irritato della signora Thornton. Oh, vi chiedo scusa, signora, ma vi sono davvero grata per avermi esclusa dall'idea di avere qualche progetto sul cuore del signor Thornton. Giovani signorine li hanno avuti prima d'ora, disse la signora Thornton con freddezza. Spero che la signorina Thornton stia bene, intervenne il signor Hale desideroso di cambiare discorso. Sta bene, come sempre. Non è di costituzione robusta, rispose brevemente la signora. E il signor Thornton? Posso sperare di vederlo giovedì? Oh, non posso rispondere degli impegni di mio figlio. C'è una questione scomoda da sbrigare in città. Una minaccia di sciopero. Se sarà così, molti suoi amici lo consulteranno per la sua esperienza e per le sue idee, ma penso proprio che giovedì verrà. Ad ogni modo, sono certa che vi farà sapere se non potrà. Uno sciopero? Disse Margaret. Per cosa? Per cosa vogliono scioperare? Per il controllo e il possesso della proprietà di altre persone, disse la signora Thornton, sbuffando energicamente. È quello per cui scioperano sempre. Se i lavoratori di mio figlio sciopereranno, dirò che non sono altro che un branco di cani ingrati, ma sono certa che non lo faranno. Chiedono paghe più alte, suppongo, ipotizzò il signor Hale. Così pare. Ma la verità è che vogliono essere loro i padroni e fare dei padroni degli schiavi sul loro territorio. Provano a farlo in continuazione. Ce l'hanno sempre in mente e ogni 5 o 6 anni scoppia una lotta tra i padroni e gli operai. Capiranno di aver torto questa volta, credo. Non hanno fatto bene i propri conti. Se usciranno allo scoperto, non sarà facile per loro rientrare. Credo che i padroni abbiano un paio di cose in mente che insegneranno agli operai a pensarci bene prima di scioperare di nuovo, se ci proveranno questa volta. E quindi la città diventerà molto pericolosa? Chiese Margaret. Naturalmente, ma voi di certo non siete una codarda, vero? Milton non è il posto per i codardi. Una volta mi capitò di dover passare tra una folla di uomini smorti e furiosi, tutti che imprecavano contro Mackinson, dicendo che avrebbero preso il suo sangue non appena avesse messo il naso fuori dalla fabbrica. E lui non ne sapeva nulla. Qualcuno doveva andare a dirglielo, sarebbe stato un uomo morto. Ci voleva una donna. Così ci andai io. E dopo essere entrata non riuscii più a uscire. La mia vita non aveva mai avuto tanto valore. Allora salii sul tetto, dove erano già ammucchiate le pietre da gettare giù sulla folla, nel caso in cui avessero provato a forzare le porte della fabbrica. E avrei sollevato quei sassi pesanti, li avrei lanciati con la stessa mira del migliore di quegli operai, ma svenni per tutta quella calura. Se vivete a Milton, dovete imparare a essere coraggiosa, signorina Hale. Oh, farò del mio meglio. Disse Margaret piuttosto pallida. Non saprò se sono coraggiosa o meno finché non lo sperimenterò, ma temo, sì, temo di essere una codarda. La gente di campagna del sud è spesso spaventata da quello che i nostri uomini e le nostre donne del Darkshire chiamano semplicemente lottare per vivere. Ma dopo che sarete stata per 10 anni tra persone che provano sempre rancore nei confronti di chi è meglio di loro, e che aspettano sempre l'occasione giusta per prendersi una rivincita. Saprete se siete una codarda o no. Prendetemi in parola. Il signor Thornton quella sera andò dal signor Hale. Venne accompagnato in salotto dove il signor Hale stava leggendo ad alta voce alla moglie e alla figlia. Sono venuto. In parte per portarvi un biglietto da parte di mia madre e in parte per scusarmi di non aver rispettato l'appuntamento di ieri. Il biglietto contiene l'indirizzo che avete chiesto, quello del dottor Donaldson. Vi ringrazio, disse Margaret frettolosamente, porgendo la mano per prendere il biglietto, poiché non voleva che sua madre sentisse che avevano chiesto di un dottore. Fu lieta che il signor Thornton parve capire immediatamente la sua attenzione e le porse il biglietto senza aggiungere altro. Il signor Hale iniziò a parlare dello sciopero. Il volto del signor Thornton assunse un'espressione che somigliava a una delle peggiori espressioni di sua madre, che disgustò subito Margaret mentre lo osservava. Sì, quegli sciocchi sciopereranno. Facciano pure. A noi va ancora meglio. Ma abbiamo dato loro una possibilità. Pensano che il commercio sia fiorente come lo scorso anno. Invece noi vediamo la tempesta all'orizzonte e riduciamo le vele. Tuttavia, dal momento che non spieghiamo le nostre ragioni, non credono che stiamo agendo correttamente. Dobbiamo dar loro tutte le spiegazioni possibili su come scegliamo di spendere o risparmiare i nostri soldi. Henderson provò uno stratagemma con i suoi operai giù a Ashley e fallì. Lo sciopero lui lo voleva, gli avrebbe fatto comodo. Così, quando gli uomini andarono a chiedergli quel 5% che rivendicano ora, disse che ci avrebbe pensato e che avrebbe dato loro la risposta nel giorno di paga. Certamente aveva idee chiare sin dall'inizio sulla risposta da dare, ma pensava che così avrebbe incoraggiato le loro idee presuntuose. Tuttavia, gli operai la sapevano lunga e avvertirono qualcosa del cattivo andamento del mercato. Così, quel venerdì, entrarono in fabbrica e ritirarono la loro richiesta. E ora lui è costretto a continuare a lavorare. Ma noi industriali di Milton abbiamo comunicato oggi la nostra decisione. Non sborseremo un penny di più. Diremo loro che potremo essere costretti a ridurre i salari, ma non possiamo permetterci di aumentarli. Eccoci qui, dunque, ad aspettare la loro prossima mossa. E quale sarà? Chiese il signor Hale. Presumo uno sciopero immediato. Immagino che vedrete Milton senza fumo tra qualche giorno, signorina Hale. Ma per quale ragione? Domandò lei. Non potete spiegare che avete buoni motivi di prevedere che il commercio andrà male? Non so se ho utilizzato le parole esatte, ma certo capite cosa voglio dire. Date spiegazioni ai vostri domestici sulle vostre spese o su come gestite il vostro denaro? Noi che possediamo il capitale abbiamo il diritto di scegliere cosa farne. Un diritto umano? Sussurrò pianissimo Margaret. Perdonatemi, non ho sentito quello che avete detto. Preferisco non ripeterlo, disse lei. Si riferisce a un sentimento che non credo condivideste. Non volete mettermi alla prova? La implorò lui. I suoi pensieri si piegarono improvvisamente al tentativo di capire quello che aveva detto. Margaret era seccata per la sua ostinazione, ma decise di non dare troppa importanza alle sue parole. Ho detto che avete un diritto umano. Intendevo dire che non sembra esserci nessuna ragione se non religiosa per cui non dovreste fare quel che volete di ciò che vi appartiene. So che abbiamo opinioni religiose diverse, ma non credete che ne abbia qualcuna anch'io, anche se non uguale alla vostra? Parlava con voce sottomessa, come se si rivolgesse soltanto a lei. Margaret non voleva avere quell'esclusività, rispose nel suo tono abituale. Penso di non avere mai avuto l'occasione di valutare le vostre particolari opinioni religiose sulla faccenda. Tutto quello che volevo dire è che non esiste nessun diritto umano che impedisca ai datori di lavoro di sperperare o sprecare tutto il loro denaro se vogliono farlo, ma ci sono dei passi nella Bibbia che, almeno a me, suggerirebbero piuttosto che così facendo verrebbero meno al loro compito di dare il buon esempio. Comunque, so così poco di scioperi, di salari, di capitale e di lavoro che faccio meglio a non parlare a un economista politico come voi. Anzi, a maggior ragione, disse lui con ardore, sarei solo lieto di spiegarvi tutto ciò che può sembrare irregolare o misterioso a un forestiero, specialmente in un periodo come questo in cui il nostro operato viene sicuramente esaminato da ogni scribacchino che sappia tenere in mano una penna. Vi ringrazio, rispose Margaret con freddezza. Naturalmente mi rivolgerò in primo luogo a mio padre per avere informazioni, nel caso in cui vivere in questa società singolare mi facesse sentire a disagio. Pensate che sia singolare? Perché mai? Non lo so, suppongo perché a quanto sembra vedo due classi che dipendono l'una dall'altra in tutti i modi possibili, eppure ognuna di esse reputa evidentemente gli interessi dell'altra come opposti ai propri. Non ho mai vissuto prima d'ora in un posto in cui due gruppi di persone si denigrano continuamente a vicenda. Avete sentito dire che qualcuno denigra i padroni? Non vi chiedo se avete sentito che qualcuno oltraggia i lavoratori, perché vedo che persistete nel fraintendere quello che ho detto l'altro giorno, ma avete sentito dire che qualcuno oltraggia i padroni? Margaret arrossì, poi, sorridendo, disse: Non mi piace che mi si facciano prediche, mi rifiuto di rispondere alla vostra domanda. Inoltre non ha nulla a che fare con la faccenda, dovete credermi sulla parola, che ho sentito della gente, o può darsi soltanto qualche lavoratore, parlare come se fosse nell'interesse dei padroni impedire loro di entrare in possesso del denaro, perché avere dei risparmi in banca potrebbe renderli troppo indipendenti. Scommetto che è stato quel Higgins a parlarti di queste cose, disse la signora Hale. Il signor Thornton sembrò non sentire quello che Margaret evidentemente non voleva sapesse, ma lo capì lo stesso. Ho sentito, inoltre, che era considerato a vantaggio dei padroni avere lavoratori ignoranti e non avvocatucoli pedanti, come il capitano Lennox era solito chiamare quegli uomini della sua cerchia che mettevano in dubbio tutto e motivavano ogni decreto. Quest'ultima parte della frase era indirizzata più a suo padre che al signor Thornton. Beh, chi era il capitano Lennox? Si domandò il signor Thornton con una sorta di strano disappunto che gli impedì sul momento di risponderle. Il padre prese in mano la conversazione. Non ti sono mai piaciute tanto le attività scolastiche, Margaret, altrimenti avresti visto e saputo, prima di dire quello che hai detto, quanto si stia facendo per l'istruzione a Milton. No, no, è vero, disse lei improvvisamente umile. Sono consapevole di non essermi mai interessata molto alla scuola, ma la conoscenza e l'ignoranza di cui stavo parlando non si riferiscono a saper leggere e scrivere, all'insegnamento o all'informazione che si possono dare a una bambina o a un bambino. Sono certa che si trattasse di ignoranza, di quel buon senso che deve guidare le donne e gli uomini. Io a malapena so che cosa essa sia. Ma lui, cioè il mio informatore, ha parlato come se i padroni volessero che i loro manovali, gli handsmen, gli operai, fossero semplicemente dei bambinoni cresciuti che vivono in questo presente e obbediscono in modo irragionevole e cieco. Per farla breve, signorina Hale, è molto evidente che il vostro informatore ha trovato una graziosa ascoltatrice pronta a sentire tutte le calunnie che ha deciso di pronunciare contro i padroni, disse il signor Thornton con tono offeso. Margaret non rispose, era dispiaciuta per il modo personale in cui il signor Thornton aveva accolto quello che aveva detto. Fu il turno del signor Hale, che disse: Devo confessare che, sebbene non abbia conosciuto così intimamente nessun lavoratore come ha fatto Margaret, sono molto colpito dall'antagonismo che a quanto pare esiste tra manovalanze e datori di lavoro. Ho maturato questa impressione anche per quello che voi stesso di tanto in tanto avete detto. Il signor Thornton fece una breve pausa prima di parlare. Margaret aveva appena lasciato la stanza e lui era contrariato per la situazione che si era creata tra loro due. Ad ogni modo, quella piccola irritazione lo rese più distaccato e riflessivo e conferì una maggiore dignità a ciò che disse. La mia teoria è che i miei interessi sono identici a quelli dei miei lavoratori e viceversa. Alla signorina Hale, lo so, non piace sentir chiamare i lavoratori manovalanza, perciò non userò questa parola, sebbene mi giunga più facilmente alle labbra in quanto termine tecnico, la cui origine, qualsiasi essa sia, risale a prima che io nascessi. In qualche giorno futuro, fra qualche millennio, a utopia, questa unità potrebbe essere messa in pratica, proprio come penso che la Repubblica sia la forma di governo più giusta che esista. Leggeremo la Repubblica di Platone appena avremo finito Omero. Beh, nell'anno platonico potrebbe accadere che saremmo tutti uomini, donne e bambine e bambini pronte o pronti per una repubblica, ma concedetemi una monarchia costituzionale nell'attuale stato della morale e dell'intelligenza. Nella nostra infanzia abbiamo bisogno di un saggio dispotismo che ci governi. A dire il vero, molto dopo l'infanzia, bambini Le giovinette sono più felici sotto le leggi sicure di un'autorità ferma e discreta. Sono d'accordo con la signorina Hale quando associa la condizione della nostra gente a quella dei bambini. Al contrario, nego che noi padroni abbiamo qualcosa a che vedere con il renderla e mantenerla tale. Io sostengo che il dispotismo sia la miglior forma di governo per loro. E quindi che nelle ore in cui vengo in contatto con loro devo necessariamente essere autocratico. Farò uso di tutta la mia discrezione, che non è mossa né dall'inganno né da un sentimento filantropico, di cui abbiamo avuto fin troppi esempi al nord, per fare leggi giuste e giungere a decisioni eque nella condizione dei miei affari, leggi e decisioni che fanno il mio interesse per prima cosa e il loro per seconda. Tuttavia non sarò costretto a dare le mie ragioni, né mi tirerò indietro da quella che una volta ho dichiarato essere la mia decisione. Che escano allo scoperto. Soffrirò quanto loro, ma alla fine scopriranno che non ho tolto o spostato neanche una virgola. Margaret era rientrata nella stanza e si era messa seduta a cucire, ma non disse nulla. Il signor Hale replicò: Beh, devo ammettere che parlo da grande ignorante, ma per quel poco che so avrei detto che le masse stanno già passando rapidamente a quella fase problematica che si interpone tra l'infanzia e l'età adulta, sia nella vita sociale che in quella individuale. E ora l'errore che molti genitori commettono relazionandosi all'individuo in questa fase è quello di pretendere la stessa obbedienza infantile di quando il suo dovere era semplicemente quello di obbedire alle regole del vieni quando ti si chiama e del fai come ti si dice. Ma un genitore saggio asseconda il desiderio di autonomia e allo stesso tempo diventa amico e consigliere quando la sua legge assoluta non vale più. Se sbaglio nel mio ragionamento, ricordate, siete voi che avete adottato l'analogia. Di recente, disse Margaret, ho sentito il racconto di un fatto successo a Norimberga appena 3 o 4 anni fa. Un uomo ricco viveva lì da solo in uno degli immensi palazzi che un tempo fungevano sia ad abitazioni che da magazzini. Si diceva che avesse un figlio, ma nessuno lo sapeva con certezza. Per 40 anni questa diceria continuò a saltar fuori e a scomparire, senza mai cessare del tutto. Dopo la sua morte si scoprì che era vero. Aveva un figlio, un uomo fatto, ma dotato dell'acerba intelligenza di un bambino che il padre aveva tenuto in esercizio in un modo strano per salvarlo dalla tentazione e dall'errore. Tuttavia, naturalmente, quando quest'uomo bambino venne lasciato libero nel mondo, tutti i cattivi consiglieri ebbero influenza su di lui. Non sapeva distinguere il bene dal male. Suo padre aveva fatto il grosso sbaglio di crescerlo nell'ignoranza, scambiandola per innocenza. E dopo 14 mesi di vita sregolata, le autorità della città dovettero prenderlo in custodia per evitare che morisse di fame. Non sapeva nemmeno usare abbastanza bene le parole per mendicare con successo. Ho usato il paragone suggerito dalla signorina Hale tra la posizione del padrone e quella di un genitore, quindi non dovrei lamentarmi se avete trasformato la similitudine in un'arma contro di me. Tuttavia, signor Hale, nel presentarci un genitore saggio come modello, avete detto che assecondava i figli nel loro desiderio di indipendenza. Al momento presente, certo, non è giunta l'ora per gli operai di poter agire in modo autonomo durante le ore di lavoro. E faccio fatica a capire cosa intendete per autonomia, e direi che i padroni violerebbero la libertà dei loro manovali in un modo che, per quanto mi riguarda, non mi sentirei di giustificare se ci intromettessimo troppo nella loro vita una volta che sono usciti dalle fabbriche. Dal momento che lavorano per noi 10 ore al giorno, non vedo nessuna ragione per mettere loro le redini per il tempo che gli rimane. Per l'altissimo valore che conferisco alla mia indipendenza, non posso immaginarmi una limitazione maggiore di quella di avere accanto qualcuno che continuamente mi impartisce ordini, consigli, prediche, o persino che pianifica minuziosamente in tutti i modi le mie azioni. Fosse anche l'uomo più saggio o il più potente, io mi ribellerei ugualmente e mi risentirei per la sua intromissione. Immagino che questo atteggiamento sia più sentito nel nord dell'Inghilterra che nel sud. Perdonatemi, ma ciò non accade perché non c'è stato alcun rapporto amichevole tra la classe consigliera e quella consigliata? Perché ogni uomo è stato costretto a stare in una posizione isolata e non cristiana, separato dai suoi fratelli e geloso di loro, con la costante paura che i suoi diritti venissero usurpati? Ho soltanto spiegato la questione. Sono desolato, ma ho un appuntamento alle 8 e non posso far altro che considerare i fatti per come li trovo stasera, senza cercare di giustificarli, il che in realtà non farebbe nessuna differenza nel decidere come agire nella situazione attuale. I fatti sono questi. Ma, disse Margaret a bassa voce, a me sembra che faccia tutta la differenza del mondo. Suo padre le fece segno di stare zitta e di permettere al signor Thornton di finire il suo discorso. Era già in piedi e si stava preparando ad andare. Dovete concedermi soltanto questo punto. Ammesso un forte senso di indipendenza in ogni lavoratore del Darkshire, ho qualche diritto io di imporre le mie idee a un altro sul modo in cui deve agire. E io stesso lo detesterei profondamente, soltanto perché lui ha lavoro da vendere e io ho capitale da comprarlo? Niente affatto. Disse Margaret, decisa a dire soltanto quest'ultima cosa. Niente affatto. Non per la vostra posizione lavorativa ed economica, qualsiasi essa sia, ma perché siete un uomo che ha a che fare con schiere di uomini e su di loro avete, che accettiate o meno di farne uso, un immenso potere. Proprio perché le vostre vite e il vostro benessere sono costantemente e strettamente intrecciati. Il divino ci ha creato in modo tale che dobbiamo dipendere gli uni dalle altre, possiamo ignorare la nostra personale dipendenza o rifiutare di riconoscere che altri dipendano da noi sotto aspetti diversi dal pagamento dei salari settimanali, ciò nonostante è così che vanno le cose. Né voi né nessun altro padrone potete farci nulla. Anche un uomo che va orgoglioso della sua indipendenza dipende invece da quelli che lo circondano e che inconsciamente hanno influenza sul suo carattere e sulla sua vita. E l'ego più isolato di tutti in questo nostro Darkshire è circondato da persone che dipendono da lui e che a lui si aggrappano, non può scrollarsele di dosso, non più di quanto possa fare l'enorme roccia alla quale assomiglia. Margaret, ti prego, non lasciarti andare in similitudini, ci hai già portato fuori dal discorso una volta, disse il padre sorridendo e allo stesso tempo agitandosi al pensiero che quelle similitudini stessero trattenendo il signor Thornton contro la sua volontà, il che era uno sbaglio. Infatti, la cosa non gli dispiaceva affatto, a patto che Margaret parlasse, sebbene quello che diceva non facesse altro che irritarlo. Ditemi soltanto, signorina Hale, venite mai influenzata? No, non la sto ponendo nel modo giusto, ma visto che vi accorgete di essere influenzata dagli altri e non dalle circostanze, direste che questi altri agiscono in modo onesto oppure no? Si adoperano per esortare, per comandare, per agire secondo giustizia, solo per il gusto di dare l'esempio o sono davvero uomini semplici e sinceri che svolgono il loro dovere e lo fanno con determinazione, senza pensare a come le loro azioni possano rendere operoso questo e parsimonioso quell'altro, perché se io fossi un lavoratore mi colpirebbe 20 volte di più sapere che il mio padrone è onesto, puntuale, veloce, deciso in tutto quello che fa. E la manovalanza è una spia più perspicace persino dei domestici, che una sua qualsiasi intromissione, per quanto fatta con buone intenzioni, nel mio modo di vivere fuori dall'orario di lavoro. Preferisco non pensare con troppo zelo a come sono fatto, tuttavia, credo, anzi conto sulla semplice onestà dei miei operai e sulla natura leale della loro opposizione. Per questo gestirò lo sciopero diversamente da come faranno alcune fabbriche e anche loro sanno che mi rifiuto di accaparrarmi un solo beneficio infamante o di agire io stesso in modo sleale. Questo va bene ben oltre un intero corso di lezioni sull'onestà e la miglior politica, che è vita solo a parole. No, no, no, com'è il padrone, così sarà il suo lavoratore, senza riflettere troppo sulla parte che deve tenere. Questa è una missione notevole, disse Margaret ridendo. Quando vedo lavoratori violenti e ostinati nella ricerca dei propri diritti, posso indubbiamente dedurre che il padrone è come loro e ignora quell'anima che è magnanima e benevola e non cerca il suo interesse? Siete proprio come tutti i forestieri che non capiscono come funziona il nostro sistema, signorina Hale, disse frettolosamente Thornton. Credete che i nostri lavoratori siano delle marionette di pasta pronte a lasciarsi plasmare nella forma che più ci piace? Dimenticate che abbiamo a che fare con loro solo per meno di un terzo della loro vita. E sembrate non accorgervi che i doveri di un industriale sono ben più grandi di quelli di un semplice datore di lavoro. Noi abbiamo un importante ruolo commerciale da sostenere, che fa di noi i grandi pionieri della civiltà. Mi colpisce, disse signor Hale sorridendo, il fatto che voi potreste essere un piccolo pioniere in casa vostra. Questi lavoratori di Milton sono una cricca di uomini violenti e incivili. Lo sono, rispose il signor Thornton. Un trattamento con l'acqua di rose non funzionerebbe. Cromwell sarebbe stato un industriale di prim'ordine, signorina Hale. Cromwell, il condottiero e politico inglese che abbatté la monarchia e instaurò la Repubblica del Commonwealth. Ricordate, Inghilterra, Scozia e Irlanda nel 1653. Ah, vorrei che fosse qui per aiutarci a stroncare questo sciopero. Cromwell non è uno dei miei eroi, disse lei freddamente, ma sto tentando di conciliare la vostra ammirazione per il dispotismo con il vostro rispetto per l'indipendenza degli altri. Lui si infiammò per il tono della sua voce. Scelgo di essere il padrone indiscusso e irresponsabile dei miei manovali durante le ore in cui lavorano per me, ma terminate quelle ore la nostra relazione finisce, e allora entra in gioco per la loro indipendenza lo stesso rispetto che io stesso esigo per la mia. Non parlò più per un minuto, tanta era la sua irritazione, ma se ne liberò e augurò al signore e alla signora Hale la buonanotte. Dopodiché, avvicinandosi a Margaret, disse a voce bassa: Mi sono rivolto a voi in modo precipitoso stasera e temo di essere stato maleducato, ma sapete che sono solo un rozzo industriale di Milton. Mi perdonerete? Oh, certamente, rispose lei rivolgendogli un sorriso. Sul volto di Thornton traspariva invece un'espressione in qualche modo preoccupata e contratta che non si dissipò del tutto quando incrociò il dolce e luminoso sguardo di lei, oltre il quale tutto il gelo provocato dalla loro discussione era completamente svanito. Ma lei non gli porse la mano. E lui, ancora una volta, ne sentì la mancanza e abbassò la sua per orgoglio.